Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Signori, eccoci qui per una nuova settimana di Uno, nessuno, 100 Milan, una settimana particolare. Particolare, insomma. Oh, cacchio, chi c'è? Particolare! Siamo in diretta o siamo registrati oggi? Che io non lo so, sono qui ma non capisco se è diretta o registrata. È una settimana particolare, Leonardo. Quindi è registrata? Particolare, perché tanto cosa ci fai qui alle 9? Accidenti, sì, sì. Vuole lavorare, attenzione, sì. Vuole lavorare, Leonardo. Siccome è una settimana particolare, mi sono detto andiamo a fare quest'ultima settimana particolare là, fin dalle 9. Come è andata oggi in metropolitana? Hai dovuto prendere la metropolitana alle 8? Ma ormai Milano si sta svuotando, io poi mi sono sempre trovato bene in metropolitana, quindi trovo questa tua domanda tendenziosa e anche fastidiosa. Vuoi insinuare che io abbia dei problemi con la socialità in metropolitana? Invece mi sono sempre trovato bene fin dal primo giorno. È il nuovo Leonardo Manera, mi trovavo sociale, socievole. Bene, a contatto con gli altri, stretto fra centinaia di persone che non ci sono più, e mi dispiace anche questo, mi dispiace non avere più a che fare in modo così stretto e a contatto con tutti gli altri, allora, c'è un distanziamento sociale un po' anche in metropolitana. È talmente particolare questa settimana che abbiamo Leonardo Manera dalle 9 alle 11. Dalle 9 alle 11, vedete. Poteva che... star bene un applauso, guardo Filippo Oreggi in regia. Si sfatano tutti i luoghi comuni. Per anni mi hanno detto che io arrivavo in ritardo, che non avevo voglia di lavorare. E da oggi il mio nuovo soprannome è Stakanov. Stakanov, Leonardo Siorbonetti Stakanov. Va bene, dai, salutiamo tutta la redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, come avete capito Filippo Oreggi è in regia e siamo con voi fino alle 11 all'iniziare questa settimana un po' particolare. Vai Filippo, enthusiasm about the future. Ma non è che chiedi gli straordinari, Leonardo, per... Un pochino sì, una mezz'ora in più comunque ha un suo valore anche economico, quindi sarebbe tipo, giusto. Quanto dareste voi, cari ascoltatori, a Leonardo Manera per questa mezz'ora in più per una settimana? Io propongo 1.000 euro, 1.000 euro in più a puntata per questa mezz'ora. A puntata? Sì. Quindi sono 2.000 delle spese, all'ora. Ho delle spese, ho delle grosse spese. Delle grandi spese, va bene. Dovrò dare allo psicologo questo denaro per così, per curarmi dopo il trauma dell'alzarmi più presto, del venire qui più presto del solito. Allora, caro Leonardo, visto che è una settimana molto, molto particolare... Ancora? Non l'avevi ancora detto particolare? No, infatti, come mai mi è venuto questo aggettivo così? Vogliamo iniziarla con un personaggio straordinario. È un personaggio che ha compiuto da poco 80 anni. Tutta Italia lo conosce perché è un grande cantautore. Ma lui da anni in pratica non canta più perché è dedito soprattutto alla scrittura. Il suo ultimo libro, il suo ultimo romanzo, Tra lume e scuro, tra l'altro è arrivato in finale al premio Campiello che ci sarà subito dopo le vacanze. Forse avete tutti capito di chi stiamo parlando, Io no. Ecco, non capisco mai, perché io non so neanche che ospiti ci sono, vengo tenuto all'oscuro, all'oscuro di tutto. Ma non è vero, ti mandiamo la scaletta, quando sei in collegamento da casa ti mandiamo il codice per collegarti. Sì, dietro insistente richiesta ricevo il codice. Oggi non so chi c'è, chi è questo personaggio che ha introdotto creando grandi aspettative. Beh, peraltro. Insomma, è qui con noi in studio, quindi potresti saperlo, ma lo voglio introdurre così. Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino, la sfumia del vacanze e la valigia, al sconsumo della strada alla stazione, a pe, ma allora camminava vero Dio, e me babbo davanti con il peso, e mi... E mia madre tre. Madre, stazione madre. E in assizzo la mare macan col barre corte. e la nebbia che ti insupava il cuore e ti stricava per avvertasse. Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca diceva che era arrivata a Bologna. Babbo, perché noi altri non si stacca a Bologna? Magari. Francesco Guccini negli studi di Radio 24, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. In realtà, Francesco Guccini, io davanti a me ho un libro, l'ultimo libro che ha scritto per Giunti, Tra lume e scuro, e invece io ho trovato che questo, per l'uso delle parole, per le pause, il ritmo, le interpunzioni, mi sembra proprio una lunghissima canzone di Francesco Guccini, di 250 pagine. Non so, una canzone, però è un racconto. Torniamo a Natale a Pavana, questo è l'argomento. E come Natale a Pavana è un ricordo, così questo libro è un ricordo di un mondo che non esiste più, di una civiltà, quella contadina che è morta. Una civiltà che è morta. Io mi sono permesso di trovare qualche brano, e qui Leonardo Manera vorrei che leggesse il primo, che secondo me è un po' il succo, se ho capito bene, del suo ultimo libro. Ma oggi quelle vie non le frequenta più nessuno, si va solo con le macchine e non c'è più gente che abita quei posti. Campeda è vuota di gente, tolto qualcuno che torna d'estate. Così è Sambuca con la sua torre medievale, un terzo dell'originale, che vide la vita di selvaggia dei nobili vergiolesi e le visite del suo amoroso Guittoncino dei Sigisbuldi o Sinisbuldi, giureconsulto e poeta, che scrisse quel sonetto «I fun sull'alto e sul beato monte», dedicato alla morte di selvaggia dopo aver visitato la sua tomba, forse quassù, ora scomparsa. Il vento del tempo ha spazzato via tutto. Era gente viva. E qui ci viveva e camminava per quelle strade, quei sentieri, portando pesi, ora vietati per legge, portando attrezzi agricoli, un pennato, un'accetta, una zappa, un picco, andando amoroso, tornando da cena, da un ballo, da un matrimonio o avventure ribalde. Ora è silenzio, vegetazione che soffoca i lastricati di pietre, stagioni che fanno crollare di frane i muretti a secco, voci d'animali ed uomini che non si sentono più, solo strade per cinghiali e daini e caprioli e qualche lupo. Il panorama non sembra cambiato. Il sole sorge sempre là dove sorgeva e tramonta al solito posto, certo, ma se guardi bene è cambiato quasi tutto. È cambiata una civiltà. Al portava via. È un po' questo il senso del libro, Francesco. Sì, l'altro libro che avevo scritto, il primo, Croniche profaniche, parlava di questo mondo che è ancora però vivace, ancora pieno di gente, pieno di vitalità. Adesso invece questo non esiste più, ci sono delle file di case vuote con dei tristi cartelli vendersi, case che nessuno comprerà mai, perché chi va a comprare una casa a Pavana, provincia di Pistoia? Sono folle praticamente, anche se te le tirano dietro, non è che abbiano delle grandi richieste economiche, però ovviamente da un lato la gente per ragioni anagrafiche scompare e non c'è ricambio, non c'è nessuno che sostituisce. E tutto questo che tipo di sentimento produce in chi a quei borghi, a quei luoghi è così affezionato? Malinconia, non nostalgia, perché nostalgia no, perché adesso onestamente stiamo meglio da un certo punto di vista. Cioè il fatto, per esempio, vi faccio vedere a casa mia i due rubinetti, uno c'è l'acqua che viene giù, non c'è bisogno di andare al pozzo, alla fontana, a prendere l'acqua come succedeva una volta. Quell'altro è un vero miracolo. C'è l'acqua calda addirittura, c'erano i termosifoni, le caldaie e i frigoriferi e automobili fuori, parcheggiate. Poi adesso tutti quei telefonini, una volta non c'era il telefono pubblico. E quindi adesso, onestamente, da un punto di vista materiale si sta meglio. Ma quel mondo è scomparso, il mondo contadino, di gente che stentava con gran fatica la vita. Però c'è una malinconia per questo mondo scomparso, per questa gente che non gira più per le strade. Però posso dire che oltre alla malinconia, cioè non è una malinconia triste, se mi permette, è più una malinconia densa di ironia che traspare in ogni pagina. Beh, quello è un po' una mia caratteristica di usare l'ironia, anche nelle canzoni usavo spesso uno ha una vena di ironia per non precipitare nella tragedia costantemente, insomma. E l'ironia mi piace, mi alleggerisce. Ci sono tante cose che mancano, se ho capito bene quella a cui più era legato, ce ne sono tante, era il mulino che un tempo era luogo di vita, non solo luogo dove si andava a macinare, no? Io sono cresciuto dentro a un mulino, ho ricevuto un imprinting peggio delle oche di Lorenz, e quindi vivere dentro un mulino è magia, perché il mulino ha acqua della montagna pistoiese, ruota orizzontale. Quando si parla di mulini tutti pensano al mulino bianco con la ruota esterna grande fuori, e invece il mulino della montagna pistoiese è una ruota piccola orizzontale, e è un castello di carte improbabile, però sta in piedi dal Medioevo, quindi funziona ancora, ma miracolosamente. Per dire che quando spostavano dovevano alzare una macina per batterla, vuol dire che o si impastava magari castagne seccate male e impastavano la macina, oppure a forza di macinare il filo la grana ruvida si appiattiva. Dovevamo riscalpellare, arrivavano i professionisti da Toscano, il mugnaio stesso, con una sessantina di martelline e di penne d'acciaio, e avevano le mani e il dorso degli avambracci neri, delle schegge di acciaio e di sasso in anni di scalpellare le macine. Alzavano questa macina che doveva ricadere, macine erano 5-6 quintali di roba, insomma, quindi non erano fuscelli da alzare, avevano dei paranchi, li tiravano su, e dovevano rimettere tutti in asse perfetto, e questo arrivava, cioè questo succedeva con una tecnica ingegneristica e meccanica di grandissima precisione, cioè dando delle mazzate all'albero, con una massa delle mazzate, e sperando che prima o poi andasse in asse perfetto. E questo poteva succedere in 10 minuti, oppure c'era un pomeriggio e delle madonne che volavano per l'aria, che aiutavano, pare, a far andare bene tutto. Di questa civiltà contadina è rimasto qualcosa oggi nel carattere anche delle persone, oppure si è perso tutto? Si è perso tutto. Qualcosina è rimasto, ma pochissima traccia. Tanto più che poi Pavel è stato un paese di grandissima immigrazione. Fra la fine e gli inizi del secolo scorso, cioè fine 800, primo 900, quasi tutto il paese è emigrato negli Stati Uniti a fare minatori di carbono, compreso un mio prozio che gli ha dedicato una canzone. Amerigo. E alcuni sono nati negli Stati Uniti addirittura, come una compaesana ormai andata a Vignale, come diciamo noi, al cimitero, che era chiamata anche Baby. Io non mi sono mai chiesto da bambino perché questa si chiamasse Baby, fosse nominata Baby, si chiamava Ines di nome, ma la Baby era nata negli Stati Uniti, come la Rosy era nata negli Stati Uniti, come Eddie Harry, poi sono tornati tutti. Del dopoguerra qualcuno è andato in Francia, curiosamente prima andavano in Francia, Nizza, quella zona di Nizza, facevano i cesti per i fiori, per i panieri di fiori, per spedire. Erano abilissimi a intrecciare i vimini per fare i cesti. E così poi andavano in Francia a lavorare a fare gli operai. Sono tornati ogni estate, venivano sui vecchi, mettevano su un pennone una bandiera francese, giocavano alla pétanque, con il gioco di bocce fatte con le bocce di ferro per strada, giocavano senza il pallaio liscio. Parlavano francese e bestemmiavano in italiano. È una costante. Essendo toscani, perché lì è toscana anche per pochi metri, toscana, la caratteristica toscana è quella di tirare, è un fiorire di, contrariamente a certe altre regioni d'Italia, in Veneto si bestemmia molto, in Piemonte anche, ma il toscano è creativo, cioè non si accontenta della banale bestemmia, deve creare, e quindi sono dei florilegi di madonne che uno potrebbe anche catalogare. Francesco, nel libro c'è una lingua che non è mai ostica, alla fine necessita però di un vero e proprio vocabolario. Si tratta del pavanese. Ma che tipo di dialetto è il pavanese? È un dialetto che non è solo lì, è un dialetto di fascia. Io penso quando il toscano incontra l'emiliano, o viceversa, quando l'emiliano incontra il toscano. Comincia da Castiglione dei Pepoli, andiamo verso est di parecchio, vieni qua sempre lungo il crinale. E quel dialetto sì, fra Emilia e Toscana arriva fino all'Alto Modenese, che è molto lontano, perché in mezzo c'è il grande iato di Corda alle Scale, dove non c'è nessuno, c'è questo monte che è molto più alto della zona, quasi 2000 metri. Quelli delle Alpi ci ridono dietro per dire, ma come un monte, il nostro monte è quasi 2000 metri, caccia via, come dicono. E fino all'Alto Modenese si parla lo stesso dialetto, con delle sfumature che si toscanizza sempre, andando verso la Toscana, si toscanizza sempre di più, paese dopo paese si toscanizza. A Pavana non hanno le caratteristiche del toscano, non aspirano la C, non dicono c'è tu. E addirittura se a una cena c'è un toscano verace, dico ma chi era quel toscano lì? E loro sono toscani. E forse si sentono anche toscani, ma sono toscani particolari, di confine. Di confine. E poi si scende verso Pistoia, subito, Prato, scendendo da Vernio, Cavarzano. No, Vernio è dall'altra parte. Noi abbiamo direttamente Pistoia. A 30 km c'è Pistoia. Però Francesco Guccini in questo libro parla anche di amore. C'è una parte, un'altra parte che chiederei a Leonardo Manera di leggere, perché insomma c'è tutto un racconto della serenata, che era un elemento fondante e fondamentale per cercare di conquistare una ragazza. Perché si arrivava spesso illibati al matrimonio, le donne. E i maschi invece, ecco Leonardo Manera, i maschi... C'erano allora, ben sparse per l'Appennino tutto, allegre osteriole dove potevi ristorarti con un bicchiere di vino, o ospitali trattorie dove consumare una parca refezione di un primo, un secondo, dolce, frutta, caffè e ammazza caffè. Gentili signorine, poi, ti si offrivano, prezzi modici, a darti quello che le fidanzate d'allora erano così poco disposte a dare, anzi, forse per una certa maggiore esperienza lavorativa, anche qualcosa di più. Un locale di questi era qui in paese e offriva le proprie comodità non solo ai giovani locali, ma anche ai camionisti di passaggio, e a volte c'erano certe file di cammi parcheggiati al lato della strada da ostruire parzialmente la povera strada statale 66 porrettana. 64. 64? 64. Sì. Sbagliato numero. Erano... insomma... Come descriverli? Beh, li ha descritti benissimo questi locali. Ma io ero troppo giovane per partecipare a queste alla fine, sì. Non, però c'erano non solo quella lì, ma diverse e anche qualche professionista, diciamo, singola. Perché allora, giustamente, detto, le donne arrivavano illibate. Erano altri tempi, adesso proprio se ne sbattono di queste regole. I giovani fanno bene perché io dico che queste, ricordo, delle, non tanto locali, ma delle villeggianti, che arrivavano su queste villeggianti, e anche loro erano restie a quei tempi bui, in quei tempi bui, a offrirti le loro grazie. E delle volte mi dico, perché questa grazia di Dio, lasciarla lì, abbandonarla lì, adesso siete diventate vecchie anche voi, maledizione. E quindi... Tra l'altro più avanti nel romanzo, infatti, ricordo così a memoria, dice «Oggi i giovani trovano tutte le porte sfondate». Oh, è una metafora, dice Guccini. Scrive Guccini, è una metafora. Insomma, in questo senso almeno c'è stata un'evoluzione positiva. Da questo senso sì, certo. C'è da dire che è un libro questo, Tra lume e scuro, davvero. Tra lume e scuro, tra l'altro, non l'abbiamo detto, no? È quella parte del giorno in cui finisce la luce, ma non è ancora buio, no? Twilight, dicono gli inglesi, all'imbrunire. In cui si racconta appunto un mondo che non c'è più. Ecco, per esempio, i nonni di Guccini hanno fatto il viaggio di nozze a Bologna, i suoi genitori a Firenze, la sua fisioterapista alle Hawaii. Che diamine, la globalizzazione, che dobbiamo fare? Sì, uno si vergogna. Una volta, anni dal 45 in avanti, fino ai primi anni 50, venivano i villeggianti, anche stavano su anche un mese, si affittavano, molta gente andava a vivere in cantina per affittare il primo piano i villeggianti, che portavano della moneta corrente che mancava spesso per queste attività agricolo-pastorali, poco rendevano da un punto di vista economico. I villeggianti venivano, stavano, frequentavano, a volte noi ragazzi si mescolavano E adesso invece non vengono più i villeggianti, sono scomparsi. Perché? Se uno dice quest'estate sono stato a Pavana e viene preso, stavo per dire una parola, stavo prendendo in giro, diciamo, selvaggiamente, invece sono stato nel Caribe, sono stato alle Hawaii, e beh, insomma, fa più bella figura. Uno si sente un povero coglione se non va in questi luoghi esotici. E dico, si va nel Caribe, che una volta ci andava solo il Corsaro Nero di Salgari. Io dico Salgari, non sa San Grisò, si dice Salgari. Non c'è più de villeggiatura come c'era una volta. Poi a Porretta c'erano le terme, che adesso sono di molto dismesse, insomma. Un tempo si facevano le vacanze proprio come tempo di vacanza, il vacare. Sì, sì, certo, no? Ma stavano anche un mese. Ricordo il mio più caro amico, che siamo conosciuti nel 49, era di una famiglia che affittava la casa dove abito adesso, era dei miei nonni, e stavano su 2 o 3 mesi addirittura, perché costava anche poco relativamente. Poi i genitori venivano su ogni tanto per una settimana di ferie, i figli stavano su tutta l'estate. E volevo chiedere a Guccini se questo mondo che non c'è più lo riscontra anche in altri ambiti, anche in quello musicale, per esempio. Ma credo tutto un altro discorso. L'altra sera è venuto a trovarmi un amico, cioè Luciano Ligabue, e mi diceva che nella discografia è cambiato quasi tutto, proprio non si sa mai cosa si vende, dove si vende. È cambiato anche il modo di fare i dischi, e quindi anche quello è cambiato tutto, ma ormai mi interessa poi relativamente alla discografia, quindi anche se ho fatto questo ultimo disco, ma non l'ho fatto io, l'ho fatto degli altri. E allora, Francesco Guccini, fermiamoci per qualche istante, diamo la pubblicità, poi riprendiamo questa stupenda chiacchierata, tra poco. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Rieccoci, cari ascoltatori, uno, nessuno, 100 Milan, siamo in compagnia di Francesco Guccini. Ora, allora, Leonardo, ti vorrei chiedere di leggere un brano del libro, Tra lume e scuro, il brano conclusivo di questo romanzo, un brano così poetico che mi ha anche commosso. Mangiano, guardano un po' di televisione, si addormentano sul divano e vanno a letto a dormire, aspettando quel lungo sonno che, bene o male, aspettano tutti i giorni, lassù, dove tutti andremo a dormire, lassù in Vignale, a raggiungere quelli che ci sono già, a fare 2 chiacchiere con loro, tutti della stessa età, tutti giovani, belli, sani, a sentirsi dire, oh te, sei arrivato anche te a giocare a bocce, a bere il fiasco, a guardare ogni tanto qua giù di sotto. A dire, pori bischeri, noi il nostro l'abbiamo già fatto, adesso sono proprio fatti vostri. Esatto, ma adesso pensa che c'era gente che, tutti pensionati, ovviamente quasi tutti pensionati, passavano i pomeriggi a giocare a carte all'italiana, briscola, 3-7 e scopa. Facevano il cosiddetto torneo, cioè ogni mano si cambiavano i giocatori. Adesso spesso non riescono a far trovare il quarto. Cioè, arrivano in 3, aspettano, il quarto non arriva e dopo un po' si salutano e tornano a casa. Anzi, perché l'ultimo torneo so che è andato in un modo particolare. Beh, non l'ultimo, il torneo di ogni tanto fanno il torneo di briscola d'inverno, soprattutto, ma anche d'estate. E uno degli ultimi l'hanno vinto 2 marocchini. Non aveva bisogno di farsi segni, parlavano arabo. È vietato parlare però a briscola. No, a briscola si parla, parla? 3-7 che è vietato parlare. Giusto, quindi si parlavano in arabo. Ma il primo premio era un prosciutto, loro hanno detto no grazie, hanno preso del formaggio. Però fatto, anche questo è un mondo che cambia. Questa è integrazione. Quindi l'ultimo vincitore o uno degli ultimi sono 2 marocchini nel torneo di briscola a Pavana. E vabbè, qui il tempo vola, noi adesso dobbiamo liberare. No, dico, il maestro Guccini dice non sono maestro, ma il maestro l'ha fatto per un piccolo, per pochissimo periodo. Per 3 giorni. 3 giorni. Maestro elementare, sì. Ma perché le è bastato 3 giorni? No, sì, perché ho capito che non era il mio mestiere. Sono arrivato e un bambino mi ha chiesto, signor maestro, perché 1.000 lire valgono 1.000 lire? E non è mica facile. No, non è facile rispondere. Sono partito dalle pecore, dicendo pecore, pecunia, questa roba qua, insomma. E così. Ma ho insegnato per una ventina d'anni degli americani, insegnavo italiano. Mm. Quindi era tutto un altro discorso. Che bella Pavana, però, che deve essere anche oggi, no? Qual è la cosa più bella che è rimasta, invece, immutata e che rimarrà sempre, nonostante il passare del tempo? Il fiume. Il fiume ha mille facce, mille curve, sassi. C'è un macigno che ricordo, e adesso è a 200 metri più a valle. Le fine d'inverno l'hanno spostato in questi anni, hanno spostato, quello lo ricordo. Ricordo i pozzi dove andavamo a nuotare da ragazzi. Mia figlia mi ha detto una volta: babbo, ma come nuoti male? Dico: nuoto male perché tu nuoti bene, perché io ti ho mandato a lezioni di nuoto. A me lezioni di nuoto non me l'ha data nessuno. Perché noi andavamo nel fiume, la terza volta che ti ripescavano imparavi a nuotare male, alla cagnolina, come si diceva. E il fiume è sempre quello lì. C'è un ricordo particolare dell'infanzia, dell'adolescenza di Guccini legato a quella terra, Pavana? Mille ricordi, ma... Quello che è rimasto più impresso. Vivere dentro un mulino con le pareti, con i sacchi appoggiati contro le pareti, i sacchi di grano, di castagne. La gente che entrava nell'androne dell'ingresso con i somari, con i muli, con i sacchi, pure portando... Adesso è vietato portare più di 50 kg per legge. Arrivano giù con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle, ma non lì a due passi, da lontano. Non solo le portavano giù, ma dovevano riportare su. Una volta macinate, non che pesassero meno, dovevano riportarle su. Ed era il pane per l'inverno, insomma. Questi sono i ricordi. E poi il mulino è un centro di chiacchiere, perché ovviamente devono aspettare la macinatura, il mulino acqua, devi aspettare che il bottaccio, cioè questo serbatoio d'acqua, si riempia, mollavi l'acqua, poi si vuotava, già fermo, l'acqua corre, allora se correva sul fondo del bottaccio poteva portare giù del fango, dei sassi, dove fermarti, aspettare che si riempisse di nuovo. E quindi la gente parlava, raccontava. E poi anche attorno a casa c'erano gli orti, che avevano l'acqua poi del bottaccio, usavano l'acqua per innaffiare, con un sistema di irrigazione pauroso, mi ricordo. E i giochi che facevo da bambino attorno a casa. I filari di fagioli, per esempio, andavano benissimo. La terra era molto... Si poteva giocare bene, costruire delle fortezze con la terra dei fagioli. E io giocavo con i copertini delle bibite. Ne avevano degli scatoloni pieni, che facevano i miei soldatini erano... E dipendeva, perché c'era anche il cinema a Pavana. Al sabato e alla domenica facevano un film della San Paolo, credo, un passo ridotto. E dipendeva dal film che vedevo. Se era un western, allora giocavo i sacchi di grano, facevano le montagne rocciose e sotto passavano i pionieri e mi divertivo con niente, con poco. Insomma, noi ringraziamo tantissimo Francesco Guccini. Tra lume e scuro, ballata per un paese al tramonto, edito da Giunti. Qui trovate un po' tutto quello che abbiamo cercato di condensare in questa chiacchierata. Vi ringrazio. Grazie davvero. Grazie a voi. Beh, ringraziamo Francesco Guccini, però anch'io sono un autore di canzoni e vorrei essere valorizzato anche in questo senso. Insomma, sono un artista poliedrico dal multiforme ingegno e Guccini mi ha stimolato a rendere nota anche una delle mie canzoni che raramente ho fatto in pubblico, ma che oggi verrà universalmente conosciuta attraverso Radio 24. E mi sembra che la collocazione dopo Francesco Guccini sia la più idonea. Cioè, cosa ci stai dicendo, Leonardo? Che adesso stiamo per sentire una tua canzone che è un po' al livello del maestrone? Sì, si chiama Il Lombrico Amico. Quindi dopo Il Guccini... Lombrico Amico? Sì. Però dopo Francesco... Però magari uno vede il titolo e rimane... Però poi magari ascolta. Certo, Il Lombrico Amico? Sì, anche senza il, proprio Lombrico Amico. No, è importante. Lombrico Amico. Lombrico si Amico. Si può anche trovare su Spotify e quindi utilizzerei questo spazio per rendere la nota al grande pubblico che poi correrà ad a ascoltarla. Certo. No, Filippo, Aureggi, regia. Ce l'abbiamo? Lombrico Amico? Sì. Ma autore... Cioè Leonardo Manera. Di Leonardo, Leonardo Manera. Manera. Eseguito da Leonardo Manera, cioè suoni anche. No, io canto, però la musica è eseguita dagli Inadatti, però su mia indicazione. Quindi tutto mio, arrangiata signora, dagli Inadatti. Lombrico Amico. Molto rock. Very rock. Ma questa è musica vera? Ma chi sono i Doors? Parte la stagione della pesca. Per pescare è necessario un'esca. È l'unico modo per avere spigole croccanti da gustare. Ma io che difendo i più deboli so che c'è un'esca che difenderò. Salviamo il lombrico, il lombrico è un amico, è un verme sincero, col cuore sicuro. Salviamo il lombrico è un amico, è risorsa vera per l'Italia intera. È tutto vero. Perché ridi? Perché ridi, perché Leonardo? Perché è bella, è rock, è divertente. È tutto. Rock, è rock. Ma c'è anche adesso la seconda parte, salviamo un altro elemento. Ah, senti. Cibi sempre più sofisticati, pieni zampi di polifosfati, geneticamente trasformati e chimicamente colorati. Ma io che difendo i più deboli so che c'è un fagiolo che difenderò. Salviamo il borlotto è un amico, legume sincero dal sapore antico. Salviamo il borlotto, si fa ben volere ed è sempre pronto da cucinare. Salviamo il borlotto, mi batto per lui, adesso lo sai che anch'io nella vita lo scopro. Oh! Dopo essermi dedicato per anni al sesso femminile, passando i miei giorni inutilmente a corteggiare, finalmente ho capito che nella vita c'è di meglio da fare. Poi la donna si innamora quando tu uomo difendi una causa eccezionale. Signori, lombrico amico. Ma di perché? Leo, fammi sentirla solo, aspetta, fai. C'è ancora la parte più bella adesso, tra pochissimo. C'è una canzone eterna, lombrico amico di Leonardo Manera. Signori, con gli inadatti! Alza il volume qui della sola. Cioè, dopo Guccini, veramente, mai più senza. Io, che difendo i più deboli so, che c'è un'esca che difenderò. Senti adesso che classe. Sincero, col cuore sei puro. Salviamo il lombrico è un amico, è risorsa vera per l'Italia intera. Salviamo il borlotto, si fa ben volere ed è sempre pronto da cucinare. Salviamo il borlotto, che con la salsiccia ti riempie la pancia da inagorizia. Pensa agli inadatti anche obbligati a fare i coretti sotto. Grande canzone, il lombrico amico. Senti, il finale, dai, voglio un finale scoppiettante. Beh, ragazzi, con anche chitarra frantumata. No. Va bene, lombrico amico, signori. Ci dispiace molto per Francesco Guccini. Va bene, no, niente. Io direi che è nel solco comunque della grande musica rock italiana, lombrico amico. Va bene, ragazzi, per un inizio di settimana scoppiettante abbiamo avuto Francesco Guccini e lombrico amico di Leonardo Manera con gli inadatti. Traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. 1, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, anzi l'ombrico amico. Sai qual è il vero dramma per la radio? Lo so, che non era stata fatta conoscere prima, questo è il vero dramma. No, ce n'è uno peggiore, che abbiamo dovuto comprarla. E quindi ti pagheremo a te agli inadatti dei grandi diritti. Ah, mi arriva qualcosa di SIAE. Dindini. Alla fine tutto fai pur di ottenere dei soldi, no? Devo arrotondare, ho molte spese, devo arrotondare. Vabbè, ok. Anzi, la farai risentire, possiamo farla sentire? No, ma non è tanto, una volta che l'abbiamo comprata, basta. Ah, no, beh, allora no. Non è che paghiamo tutte altre. Le volte. C'è Mastella No, per esempio, su Spotify. C'è che c'è? Mastella No, un'altra canzone dedicata a Clemente Mastella. È un po' di anni fa. Ci stai facendo comprare altre canzoni? Sì, vai a cercare Mastella, no, Leonardo Manera. Vabbè, magari nei prossimi giorni, se il direttore personale concederà questa spesa, vedremo un po'. Caro Leonardo, va bene, questa prima ora di Uno Nessuno 100.000, come la vogliamo concludere? Questo è stato l'anno fino adesso caratterizzato dal coronavirus, e quindi io in queste puntate di questa settimana ho pensato di ricostruire un po' tutto l'andamento del coronavirus con le parole chiave che ascolteremo nei prossimi giorni, e invece partendo dall'inizio, da gennaio, da quando ha cominciato a manifestarsi, una specie di ricostruzione di questo nostro periodo che abbiamo vissuto. Fase 0. Gennaio 2020, la nostra vita proseguiva tranquilla, e quando dai nostri divani con in mano lo smartphone scorrevamo le notizie del giorno, passavamo veloci le pagine che parlavano del misterioso virus cinese. Avevamo cose ben più importanti a cui pensare, erano appena cominciati i saldi, Salvini citofonava gli immigrati per chiedergli se spacciavano, e Harry e Meghan avevano detto addio alla Casa Reale. Non pensavamo a quelli là, i cinesi, che ai nostri occhi erano proprio strani, così diversi da noi e così uguali tra loro. Dei cinesi pensiamo che lavorano sempre, non muoiono mai, friggono tutto, mangiano i cani, gli insetti. Noi non abbiamo mai pensato che un cinese, per esempio, possa mangiare una bella bistecca, una bistecca normale. Per noi un cinese che mangia una bistecca non è un vero cinese, come un veneto astemio non è un vero veneto. Nel nostro immaginario il cinese va a prendere apposta gli animali che o sono animali da compagnia, i cani, i gatti, oppure sono quelli con l'aspetto più disgustoso, li frigge e li mangia. Non tanto perché piacciono a lui, ma per fare orrore a noi, e li mangia con le bacchette, con le bacchette. E ci siamo sempre chiesti, ma se ci sono le forchette che sono così comode, così semplici da usare, ma perché i cinesi devono usare le bacchette? Perciò i cinesi ci sono sempre sembrati gente strana. Prima i cinesi li vedevamo come degli extracomunitari che si facevano i fatti loro qui in Italia. Noi, prima del coronavirus, il cinese in Italia l'abbiamo sempre considerato utile perché era economico. Il barbiere cinese costa meno del barbiere italiano. Il ristorante cinese costa meno del ristorante italiano. Il centro massaggi cinese costa meno del centro massaggi italiano, e magari ti dà anche qualcosa in più. Insomma, prima del coronavirus i cinesi soprattutto ci facevano comodo. Ma quelli che stanno là in Cina ci sembravano troppo lontani da noi come usi, costumi, modo di vivere. E allora abbiamo pensato, se anche c'è un virus nato in Cina, sicuramente riguarderà solo i cinesi e non potrà mai diffondersi qui da noi. Pensavamo, in Occidente, il nostro bel mondo evoluto, libero, pieno di weekend, di ponti, di happy hour, un virus nato in Cina non può arrivare, perché lo stroncheremmo subito, perché un virus di quel tipo può forse nascere là, dove mangiano i topi vivi e i pipistrelli morti, ma qui da noi no. Noi mangiamo il maiale, il manzo, il vitello, le rane, il cavallo, le lumache, la trippa, le interiora. Noi siamo evoluti, fino a noi quel virus non può arrivare. Finché i giornali hanno dato la notizia dei primi due casi, c'è stato un attimo di panico, ma si è saputo subito che erano solo due cinesi venuti in vacanza in Italia, quindi eravamo fuori pericolo. Questi due signori cinesi avevano visitato città, scattato selfie, incontrato persone, frequentato alberghi e mezzi pubblici, bevuto caffè, cenato da nord a sud, però erano comunque cinesi, quindi potevamo stare tranquilli. Evidentemente il virus colpiva solo i cinesi. Ecco come avevamo liquidato la questione, forse attecchiva sui capelli lisci o colpiva solo gli occhi a mandorla. E allora abbiamo continuato a fare la solita vita, a fare i nostri aperitivi, mettendo le mani tutte insieme in quelle vaschette piene di bruschette, di patatine, di crostini, di salsine, sicuri che ormai, anche grazie agli happy hour, eravamo immuni a qualsiasi tipo di virus, perché nelle vaschette gli happy hour c'è tutto, anche il colera a pezzettoni, ma ormai non ci fa più effetto, a forza di aperitivi siamo immunizzati. L'happy hour vale più di qualsiasi vaccino, finché arriva il 21 febbraio 2020. Codogno è una piccola cittadina nel Basso Lodigiano. La maggior parte degli italiani non sa nemmeno dove sia Codogno, È qui che in un venerdì pomeriggio, come gli altri, viene scoperto il paziente 1. Si chiama Mattia, che non sembra un nome tanto cinese. I cinesi si fanno chiamare Mario di solito, ma Mattia mai, quindi deve essere italiano. È il primo campanello d'allarme, un campanello che ignoriamo, perché se il paziente è a Codogno, il problema deve essere di Codogno. Cioè, con Codogno all'inizio abbiamo ragionato come i cinesi, perché peraltro Codogno molti di noi nemmeno sapevano dove fosse. Non eravamo preoccupati perché a Codogno non c'erano cose fondamentali per la nostra vita. Non ci sono grandi squadre di calcio dove si va in trasferta, non ci sono locali alla moda dove andare a ubriacarsi o a cercare sesso, non ci sono aziende che producono smartphone, insomma non ci sono le tre cose che a quanto pare danno un senso alla nostra vita: calcio, sesso e telefoni. E poi da Codogno il virus ha cominciato a diffondersi. C'era un contagiato in Polonia, era passato da Codogno. C'era un contagiato in Lapponia, era passato da Codogno. Insomma, non lo sapevamo, non lo sospettavamo, ma Codogno era il centro del mondo. Codogno è l'origine di tutto. Io mi sono informato, ho letto e ho visto che secondo alcuni testi della Bibbia Adamo ed Eva erano di Codogno, tutto è partito da lì. All'inizio stampa e TV ci rassicuravano: tranquilli, il coronavirus comincia a circolare, ma muoiono gli anziani, muoiono i vecchi, evviva! Non importa se quei vecchi erano quelli che per tanto tempo avevano aiutato le famiglie, se erano quelli che si occupavano dei nipoti. L'importante era che morissero loro, possiamo brindare felici, muoiono i vecchi! I telegiornali, i programmi di approfondimento erano tutti concentrati su quello. Oggi un altro morto, ma era vecchio e con patologie precedenti, anche il tono cambiava. Oggi un altro morto, ma era vecchio con patologie precedenti, come dire, anche se capita a noi che siamo più giovani non succede niente, alla faccia del Paese Unito, della solidarietà sociale, dell'Italia che canta l'inno sui balconi. In più l'anziano per un periodo è stato visto come una specie di untore, perché ha continuato ad andare in giro a fare la spesa al supermercato 3 volte al giorno e in farmacia. Forse perché preferiva morire di coronavirus invece che morire di solitudine. E noi che per un attimo ci eravamo preoccupati, eravamo ormai in dubbio se andare ancora a fare gli happy hour, abbiamo pensato: ma sì, dai, muoiono solo i vecchi. Bene, nella nostra evoluta società siamo stati felici per un po' che morissero soprattutto i vecchi, perché se morivano loro, tutti noi potevamo tranquillamente continuare a fare quello che facevamo prima. Poi quando il premier Giuseppe Conte una domenica di fine febbraio è andato in tutte le sedi istituzionali, per esempio da Barbara D'Urso, a dire che il virus si stava diffondendo in modo serio, la reazione di noi italiani è stata seria e misurata. Il panico. Fila immediata ai supermercati per comprare soprattutto 2 cose non necessarie. Acqua, che si può prendere al rubinetto, e carta igienica, non necessaria perché l'acqua si può bere appunto dal rubinetto, e carta igienica non necessaria perché, grazie al cielo, in caso di necessità in Italia ci sono anche i bidet. Gente che comprava 50 rotoli di carta igienica, e la domanda veniva spontanea: scusate, ma quanti culi avete? E il panico che si stava diffondendo implacabile era oro per le televisioni, che hanno cominciato a fare dirette davanti agli ospedali. Tutto questo è durato 1 settimana. Poi è seguita un'altra reazione altrettanto misurata. L'Italia non si ferma, tutto aperto, che sarà mai? È un virus pericoloso, anzi no. Cioè si è passati dal chiudere tutto al tenere aperto tutto, come una che non la dà mai e di colpo la dà a tutti. Che succede a volte? Succede di incontrare donne così, anche se io le ho sempre incontrate nella prima fase, cioè quando non la danno mai. E noi italiani, che in fondo crediamo ai politici, abbiamo pensato: beh dai, in Italia siamo così fighi che è stato sufficiente 1 settimana per fermare il virus. Non importa se i cinesi nella provincia dell'Hubei erano in lockdown, chiuso tutto da 2 mesi, per noi bastava 1 settimana, perché da noi il virus è più buono. Cioè, noi all'inizio il virus l'abbiamo considerato come se avesse il tipico carattere italico, che sì, fa quello che si deve fare all'inizio, va in giro a infettare la gente, lavora, si dà da fare, ma dopo un po' si rompe le scatole, preferisce stare a casa sua tranquillo, preferisce fare il virus assenteista. E noi abbiamo pensato che il ceppo italico del coronavirus fosse così, e la settimana dopo siamo tornati a fare più o meno la vita di prima. Io, come tutti, ho cercato di ascoltare chi ne sapeva più di me, i virologi, e ho capito che anche loro non ne sapevano molto, e da lì ho cominciato veramente a preoccuparmi. Caro Leo, e allora concludiamo qui la prima ora di Uno Nessuno 100.000, ma secondo me domani ci terrai compagnia, no? Su questo viaggio nel coronavirus. Domani cominceremo a parlare delle parole tipiche di questo nostro periodo di coronavirus. Vabbè, vabbè. Giornale Radio, rientriamo subito dopo. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. Diario di un giorno, ogni domenica alle 14.30 all'interno di Passione Domenica con Cristina Carpinelli. Vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza, naturalmente su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro Leonardo Manera, e c'è ancora Francesco Guccini che ci risuona un po' nelle orecchie. La eco per Francesco Guccini. La eco per Francesco Guccini. Va bene, però la seconda ora la vogliamo iniziare parlando di una vicenda che recentemente, ricorderete tutti, ha davvero conquistato le prime pagine dei giornali. La vicenda della morte dei due ragazzini di Terni, Flavio e Gianluca, per l'assunzione di metadone, comunque l'assunzione di droga che è stata venduta loro da un tossicodipendente che era in cura al SERT. Quello che ci ha colpito, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è la vicenda del rapporto familiare, di quello che succede nelle famiglie quando spesso si è detto questi ragazzi magari sono dediti alla droga, sono molto esperti di droga e in famiglia non se ne sa nulla. E proprio cerchiamo di indagare un po' nei rapporti familiari con il procuratore del Tribunale dei Minori di Milano, Ciro Cascone, che salutiamo. Buongiorno, dottor Cascone, grazie di essere qui. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Chissà quante storie simili lei avrà sentito di genitori magari disperati che dicono: ma noi non ne sapevamo nulla, com'è possibile, no? Cosa vuol dire non conoscere a fondo che cosa fanno i nostri figli? Sì, purtroppo sì, questa è una, come dire, è uno schema un po' triste che si ripete, che noi notiamo spesso nei rapporti intrafamiliari. Ora vale per la droga, molto spesso vale anche per quello che i minori, diciamo, i ragazzi, gli adolescenti fanno in genere in rete. Pensiamo anche all'altra vicenda dei ragazzi che, insomma, si trasmettono, si inviano tra di loro immagini pedopornografiche. La famiglia spesso è l'ultima a sapere. Con riferimento alla droga, devo dire, ecco, due considerazioni di carattere generale. Negli ultimi anni abbiamo notato che il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi è incrementato molto, nel senso che si è abbassata anche l'età minima a cui accedono alle droghe questi ragazzi. Già alle scuole medie, già a 12-13 anni hanno le prime esperienze, e devo dire non solo di spinelli, non solo di droghe leggere, tra virgolette, a volte passando anche alle droghe più pesanti. E la famiglia non sempre se ne accorge, non si rende conto, e quando se ne accorgono, io noto quello che a volte arriva a noi, quindi la punta dell'iceberg, perché c'è un sommerso che intuiamo soltanto, percepiamo, ma non riusciamo ad afferrare, nel senso che spesso il genitore o denuncia il figlio, ma perché il figlio arriva anche a commettere violenze in famiglia per ottenere il denaro, per procurarsi la droga, ecco, o comunque il genitore si accorge che qualcosa non va, spesso sono i genitori che ci danno indicazioni, ci fanno trovare alla polizia la droga nascosta in casa o... E questo è un tema interessante, cioè talvolta invece i genitori sono attenti o comunque si accorgono che qualcosa esatto. di stia succedendo. A quel punto bisogna capire che tipo di comportamenti tenere. Lei dice che spesso collaborano, nel senso con le forze dell'ordine e... Guardi, collaborano, allora le dico, questo spesso circostanziamolo un po' meglio, nel senso che tante volte i genitori cominciano a percepire e sulle prime credono di poter aiutare il figlio senza fare ricorso, il gioco di parole, ad aiuti esterni. Quando arrivano a denunciare o in qualche altro caso, devo dire a segnalare a noi procure, tribunale per i minorenni, per intenderci, quindi senza necessariamente fare una denuncia penale, ma una richiesta di aiuto forte, nel momento in cui da soli non riescono più, si rendono conto che non possono da soli aiutare il figlio e quindi hanno bisogno di un sostegno esterno. Sì, quasi alla disperazione, l'ultima carta. Esatto, è l'ultima spiaggia, l'ultima carta. E quindi il primo grosso rammarico che viene e che noi proviamo è proprio questo, che spesso è un po' tardi, quindi dobbiamo intervenire sicuramente con gli strumenti processuali in alcuni casi, anche con delle misure restrittive della libertà personale, perché davanti a un'estorsione commessa in famiglia c'è poco da fare, ma anche perché paradossalmente quello diventa l'unico strumento per dare uno scossone al ragazzo e cercare di tirarlo fuori. Altre volte si interviene con strumenti, diciamo, di natura civilistica, quindi procedimenti rieducativi, si chiamano così, nei confronti di questi ragazzi che hanno una condotta irregolare, e l'abuso di stupefacenti è una tipica condotta irregolare dell'età adolescente, e quindi anche con eventuali collocamenti, come dire, forzati in comunità di recupero, in comunità, diciamo, terapeutiche di questo tipo. Però ecco, posso dire che nella stragrande maggioranza dei procedimenti, delle denunce che abbiamo per maltrattamenti in famiglia, maltrattamenti fatti dai figli nei confronti di altri componenti familiari, genitori soprattutto, la molla che fa scattare questi comportamenti e l'uso di sostanze stupefacenti. Comunque magari i genitori si rivolgono tardi a voi anche perché temono proprio conseguenze penali per i figli che magari non vorrebbero... Temono sicuramente, ma quello è l'ultimo pensiero. Secondo me sottovalutano la situazione all'inizio. Allora, all'inizio c'è una... chiamiamola una... non conoscenza, una mancata attenzione a quello che il figlio può vivere. Tante volte questi ragazzi, almeno nella fase iniziale, come dire, hanno una vita perfettamente normale, per cui il genitore non si accorge, vede che esce con gli amici, frequenta la scuola, fa altre cose, ma non sa che in quei momenti, all'inizio almeno, però stato un po' con un minimo di attenzione ci si comincia a rendere conto che i comportamenti cambiano. Lì scatta anche cambiano. Un po', procuratore, un po' forse o il fatto di dire, come ha detto lei, ma sì, riusciamo a risolverla, riusciamo a raddrizzare la situazione, forse anche un pizzico di vergogna sociale a dire... Anche, entrambe le cose, le confermo, accentrato, sono entrambe le cose, perché in un primo momento magari si rivolgono a chi può essere al medico, all'esperto, all'amico, a qualcuno per cominciare a... E c'è anche quella componente di vergogna sociale, di non far emergere questa cosa, per cui ecco, serve proprio la molla che fa scattare la denuncia e la disperazione, quando ci si rende conto che si sta perdendo il controllo della situazione. Se magari si anticipasse questa richiesta di aiuto un po' prima, si riuscirebbe forse a intervenire molto più precocemente. D'altro canto, mi lasci fare questa riflessione, purtroppo le dicevo... si è molto abbassata l'età e si è diffuso il consumo. Perché? Perché c'è stato una sorta di sdoganamento, soprattutto per le droghe leggere, cioè i ragazzi, gli adolescenti oggi pensano che sia normale usare queste sostanze, non vedono più nulla di illecito in questo uso, e senza rendersi conto del passaggio ulteriore, non solo dei danni che ne ricevono, in qualche caso anche letale, ma del fatto che l'uso di queste sostanze modifica i loro comportamenti e quindi tutti gli agiti trasgressivi e violenti derivano da quello molte volte.

governo che italiano governo? Come rappresentante dell'educazione italiana. Di che? Dell'educazione, perché a Italia c'è troppa maleducazione, hanno detto vai Donato, non comincia con questo campanello della dieta e spacco la destra. Cane schifoso, mi fai schifo. Vabbè, come persona. Vabbè, Pippo Aureggi, mi fa schifo anche il nome. Pippo, ma Pippo, affanculo. No. Allora, Filippo Aureggi, purtroppo il soggetto è irascibile. Ti metto una bomba nella regia, Filippo Aureggi, sempre io a fare il gradasso. Vai. No, vabbè, insomma, manteniamo i toni un po' più cordiali, vai. Non tanto di più, ma giusto il... Va bene, cosa che deve fare? Fai schifo, gradazzo. Allora, sono venuto, sono stato indicato dal governo italiano per portare il Galateo. Galateo con una L. Che bisogna rispondere alle domande. Io faccio tre risposte per ogni cosa e bisogna dare la risposta giusta. Allora, per esempio, a tavola, sì. Quando si può fare la scappetta? Scarpetta. Allora, quando sei digiuno da almeno mezza giornata, quando a tavola qualcun altro l'ha fatto prima di te, risposta esatta. Manda adesso campanello Aureggio, deve fare una cosa, la fa prima che non deve fare, non la fa quando la deve fare. Ma fa schifo, va a tagliare i capelli con la fettatrice Aureggio, presuntuoso cane. Ma schifo come persona. Risposta esatta, quando si accena con la fidanzata, ma ormai il rapporto non va più bene. Ma no, perché? Allora, seconda domanda. Nello scompartimento di un treno, sì, quali di questi comportamenti è più educato? Togliersi le scarpe e rimanere coi cazzini, no. Ma solo le scarpe sono seminuove. No. Fumare, ma solo sigarette nazionali. Vietato. Solo sigarette nazionali, ho detto. Periodo così bisogna fare le sigarette nazionali. Vabbè, ma non fumarle. Risposta esatta. Manda il campanello, Aureggio! Mezz'ora che glielo dico sto qua, com'è che l'hanno assunto, mi fa schifo quello l'odio lì, Aureggio, con quei capelli lunghi, capellone, no. Drogato! Manda tagliare i capelli, drogato! Se tagliano i capelli, lui ti faccio incaprettare da mio cugino. Risposta esatta? Mangiate un panino preso dalla borsa del vicino. Se tu vedi un panino lì, dici, come me lo prendo, lo tieni nella borsa. Ma come, è rubare? Allora... Vabbè. Quando si è invitati a cena in casa di conoscenti, A. Ci si presenta solo se la padrona di casa è carina. Ma perché? B. Si porta un cane per far mangiare gli avanzi. E gli avanzi non sai mai cosa fare. Ci mi sono portato un cane, se la cena fa schifo ci faccio mangiare gli avanzi. Risposta esatta. Si arriva già ubriaco per non consumare altro vino. No, ma dai. Tu vai a mangiare il vino degli altri, va a bere il vino degli altri. Va a bere, ma portati anche. Dice, non è arrivato già ubriaco. Così non devo bere il tuo vino e non ti consumo il tuo vino. Succedono brutte cose se sei già ubriaco. Sarai simpatico tu quando vai a bere il vino degli altri. Cerca di essere più educato. Magari porti una caniderlo, bottiglia. Caniderlo, mi fai schifo anche tu come persona. Vabbè. Allora, altra domanda: come si mangiano gli spaghetti? Chi? Gli spaghetti. Che cosa? Gli spaghetti, il piatto tipico italiano, non conosci gli spaghetti? Se tu conosci gli spaghetti, questo che cosa mangia? Mangia solo i canederli, mangia i chats. A mangiare gli chats. Buonissimi. In Friuli. Chat. Sì, gli chats. Si mangia gli chats. Che piatto è lo chats? Ma ti fare il fighetto nei ristoranti, tutti così. Valtellinese, salutiamo tutta la Valtellina. Mangiare gli chats. Gli chats. Vai a fare il massaggio chats, no che te lo mangi. Ma no, è un'altra cosa. Fatto un massaggio chats e poi l'ho anche mangiato, per qui a bandarsi. Filippo Aureggi, ma veramente sei una persona disgustosa. Ti spacco l'orologio appena vengo lì in regia. Fa vedere che ha tutto l'orologio dorato. C'era un Rolex, sì, Rolex. Sì, l'ha comprato qui sotto nel baracchino. Allora, come si mangiano gli spaghetti? Sì. Con la forchetta che si usa anche per tagliarli, prima li tagli e poi li mangi. No, che brutto. Col risucchio, ma solo in caso di spaghetti lungo bucatini. Risposta esatta, con le mani, ma solo in caso di spaghetti al burro, così non ti sporchi le mani di pomodoro. Ma come le mani? Sì. Perché dopo se tu li puoi mangiare con le mani, ma solo su spaghetti al burro, perché se sono unti, c'è il succo al pomodoro, puoi tirare il succo di pomodoro sulle mani del brutto. Invece il burro, che è trasparente, che fa schifo sulle mani, però non lo vedi. Questo è il Galateo. Lo capisci le regole del Galateo? Ma no, guarda, il Galateo non devi far vedere che ti stai con tutte le mani sporche di pomodoro. Va bene. L'importante è quello. Se ce l'hai oliose, non nel Galateo l'importante è l'apparenza. È l'apparenza. L'apparenza, hai capito? Sì. Allora, durante una immersione al mare si vede un corallo. come è opportuno comportarsi, deve avere un corallo. Sì, ma lei sulle doppie ha un po' di problemi. Un corallo. Un corallo, cosa ho detto io? Quella roba lì, quella roba lì. Allora, come bisogna comportarsi, vedi, in acqua un corallo? Come? Lo strappi per metterlo in salotto? No. Lo strappi e lo regali alla più carina della compagnia, ti guardi il senno e se ha un bel senno ci regali il corallo che hai preso. Prima però devi vedere il senno di tutte. Lo devi vedere già il prima. Il famoso senno di poi. No, è per quello che devi vedere già prima. Non è che dopo che hai visto il corallo dici no, col senno di poi guardo quello che è il senno migliore. Devi guardare il senno di tutte prima, non il senno di poi. Quando già... Ragazzi, questa è poesia. L'hai già vista prima il senno di tutti, dopo ci regali il corallo. Risposta esatta, si strappa il corallo e per non creare malumore ne regali un pezzetto a tutte le compagne di immersione, anche quelle che non hanno il senno. Così non si offendono, perché sennò quella dice no, non mi ha regalato il corallo perché non ho il senno. Tu invece, per essere secondo il Galateo, ce ne regali un pezzo a tutte, a indipendenza dall'ambiente del senno. Vabbè. Allora, proseguiamo. Allora, se fai un colloquio di lavoro, non è corretto. Non è corretto, attenzione, non è corretto. Presentarsi più di 3 ore dopo l'orario fissato. Beh, certo. E tu ce l'hai alle 9, arriva alle 12, dice, forse non è puntuale nel lavoro. Abbastanza. C'è qualche dubbio sulla puntualità. Sì. Risposta 2, presentarsi in ciabatte. Anche questo. Dipende, anche questo dipende, perché se vai al bagnino puoi anche presentarsi in ciabatte, sì, se vai in colloquio per un bagnino. Se vai per fare il direttore da 24. Penso che se Fabio Tamburini, quando ha fatto il colloquio, si presentava in ciabatte. No, secondo me non lo prendeva. No. Se arriva Tamburini in ciabatte. Secondo me Tamburini c'ha una R, Tamburini. Secondo me se si presentava in ciabatte non lo assumevano. Credo di no. Risposta esatta. In occasione di un colloquio di lavoro non è corretto portare del vino per farsi bello con l'esaminatore. No, prendi, beviamo un po' di vino che è, ci facciamo insieme, non è corretto. No, non è molto corretto. Ce ne vuole dare l'ultima, caro Sprecacenere. Allora, prima di alzarsi da tavola, sì. Alla fine di un pranzo tutto formale, no? Come bisogna comportarsi? Allora, esprimere la soddisfazione per il pranzo con un rutto prolungato. No, beh. Battere le mani sul ventre. Ehi! Anche questa è un po' maleducata, sì. Risposta esatta, portarsi a casa un piatto come ricordo della Lega del Bagione. No, soprattutto se è in porcellana. Te lo porti a casa. Io comunque me lo batto la mano sul ventre. Ma cioè, ho mangiato bene. Ho mangiato benone. Sprecacenere, noi mi la ringraziamo. Filippo Aureggio, per modo di dire, niente. E con queste campane che ci annunciano la fine della trasmissione, la salutiamo. Grazie. Non venga più a ritrovarci. Domani vengo a terminare, che non mi avete fatto esprimere a come domani. Mi dovevo esprimere. A domani. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.